Sometimes I get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never had before, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte. Quella che state ascoltando, naturalmente noi ve le numeriamo tutte, è la 285esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa. Ovviamente sempre all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito. Allora, sugli 87.900, così ho detto tutto, di megahertz, perfetto. Oggi in radio chi siamo? Io che sto parlando, che sono Lucilla, Rosina che ride qui accanto a me, poi ci sono delle amiche che sono venute a fare il tifo, e una è Annalisa, e voi lo sapete, Annalisetta nostra, l'altra è Elisa che sta benissimo qua con noi, e abbiamo poi una fonica d'eccezione, perché Caterina, la salutiamo, compie gli anni e se ne sta in giro, e invece c'è Nancy, la favolosa fonica Nancy. Perfetto. Stasera, ora ho incensiato abbastanza, possiamo passare ad altro. Stasera avremo ospiti attraverso la possibilità di sentirci radio con il cellulare, con i telefoni. Avremo ospiti con noi due carissime amiche e compagne, Tiziana e Cecilia, che già hanno parlato attraverso i nostri microfoni e per la questione delle 5 giornate lesbiche organizzate nel 2010, loro due erano nel comitato promotore e noi abbiamo avuto la fortuna e il piacere di lavorare con loro in quell'occasione. Io c'ho sempre accanto The Voice che ride, non so di che ride, però ride. E poi Cecilia, che è venuta a parlarci della rete dei genitori Rainbow, quindi insomma ci sono dei contatti e degli scambi sicuramente buoni. Le sentiremo tra breve. L'argomento, smetti di toccarmi l'orecchio, l'argomento sul quale oggi parleremo è il Roma Pride previsto per il 15 giugno. Noi sappiamo che ambedue le nostre amiche sono impegnate in questa kermesse, se la vogliamo chiamare così, e quindi le sentiremo appunto. Buon ascolto, se volete intervenire intervenite attraverso naturalmente il telefono della radio, e direi di iniziare intanto ascoltando una canzone che la forte Nenzina ci manderà. Yeah. Allora, quelle che abbiamo ascoltato, mi sentite? Il Deep Dark Robot con Get Out of My Mind. Vai, Lucilla. Che pronuncia meravigliosa! Ui, che bellezza, la verità. Ecco qua. Allora, Cecilia e Tiziana, buonasera, grazie per essere qui con noi. Io non ho il ritorno in cuffia, adesso vedo se... Eccoci, mi sentite? Sì, noi ti sentiamo. Oh, perfetto, benissimo. Allora, grazie ancora di essere qui con noi. Come Lucilla ha ampiamente anticipato, questa sera parleremo con voi del Pride, che appunto si terrà il 15 giugno. Però ci volete dire qualcosa di più? Che cosa prevede questo Pride quest'anno? Come sarà organizzato? Il Pride prevede, ovviamente è stato preparato un documento politico che può essere consultato sul sito del Roma Pride 2013, è un documento politico ad ampio respiro, diciamo riprende moltissimo il documento politico dell'anno scorso, verranno fatte anche delle cartoline cosiddette per riassumere quelli che sono i punti principali del documento e sarà, diciamo, noi avevamo pensato a questo Pride, diciamo, anche per dare un tocco di femminilità, cioè di introdurre una sezione dedicata soltanto alle lesbiche. Purtroppo questo non è stato possibile, però appunto ci piacerebbe poterne parlare magari per coinvolgere altre donne per l'anno prossimo. Ma ci sarà uno spezzone lesbico? Avete previsto una cosa di questo genere? Dunque, lo spezzone lesbico, diciamo che noi ci terremo a farlo per quanto riguarda il corteo, la manifestazione, come abbiamo fatto anche l'anno scorso, e diciamo di lasciare uno spezzone soltanto per le donne. Non ci potranno essere purtroppo degli eventi per cause, diciamo, organizzative, così come avevamo pensato, cioè di introdurre una sezione dove si potessero fare dei dibattiti, presentazioni di libri, musica, spettacoli, teatro, cinema, soltanto di donne per donne. Lo avevamo, diciamo, previsto, messo giù, organizzato, ma diciamo lo rimandiamo al prossimo anno o ad un'altra occasione. Ho capito. Senti, Tiziana, visto che stai parlando, ti vorremmo fare una domanda proprio diretta, no? Noi abbiamo avuto anche un incontro con te come coordinamento Lesbiche Romane quando hai incominciato a lavorare a questo progetto, no? E quanto della tua esperienza di lavoro delle 5GL che si tennero nel 2010, quanto di quell'esperienza ti è servita in questo caso e se hai trovato differenze nel modo di lavorare, cioè nello specifico in maniera separatista con le 5GL sicuramente, no? Abbiamo partecipato poi anche noi alle assemblee nazionali, ai vari incontri che poi c'erano, e invece questo in una forma mista con il coordinamento romano del Roma Pride 2013. Sì, diciamo l'esperienza delle 5GL è stata un'esperienza particolare anche per me stessa, insomma era il primo evento di sole donne al quale ho contribuito, diciamo, che ho contribuito ad organizzare, ed era un'esperienza che mancava anche nel mondo lesbico da parecchio tempo, e abbiamo sperimentato quello che è il metodo della condivisione delle decisioni prese tra donne, cioè c'è stato il momento assembleare, più momenti assembleari in cui ci siamo confrontate apertamente, dopodiché si è lavorato ciascuno con dei gruppi specifici e si è portato il lavoro dei gruppi poi in condivisione. Allora, questo metodo a me è piaciuto tantissimo, è costato tanta fatica, anche questo è, diciamo, certo, è da precisare. Costa fatica. Mi è piaciuto così tanto che durante queste riunioni qui a Mieli ho provato a riproporlo come metodologia, e la cosa straordinaria è che anche lei è piaciuto tanto. Infatti abbiamo per questo Pride qua organizzato, siamo stasera ad esempio, abbiamo appena terminato la seconda assemblea generale e abbiamo riproposto questo stesso metodo e devo dire che sta funzionando perfettamente, quindi diciamo forse abbiamo portato anche una sorta di tocco di lesbicità al mondo gay, speriamo, insomma. Speriamo, benissimo. E niente, Oh, proprio a questo proposito, Tiziana, noi è un discorso che facciamo da tantissimo tempo, lo facciamo noi, lo fanno le altre compagne degli altri gruppi. Spesso succede che in situazioni miste, quindi di lavoro fra compagne e compagni, lesbiche e gay, può accadere che le lesbiche, così come diciamo come macrocategoria, in qualche modo scompaiano dal discorso politico oppure vengano appunto messe all'atere. Che cosa pensi di questo? È una cosa che hai riscontrato anche tu nel tuo lavoro, non nello specifico in questa occasione, però in genere. Pensi che ci sia che ancora resista questa sorta di dicotomia fra uomini, donne, gay, lesbiche, in qualche modo le donne appunto, se non proprio messe a parte, in qualche modo confuse nell'indistinto, nel neutro? Guarda, sicuramente c'è questa tendenza. Diciamo che durante queste riunioni, ma anche l'anno scorso, non soltanto quelle diciamo preparatorie del Pride, il 90% della presenza è maschile, varie associazioni però la presenza è maschile, quindi ogni tanto bisogna, come dire, far sentire la voce femminile, che loro non è che ignorano assolutamente, è che sono abbastanza, come dire, centrati sul loro universo, e ogni tanto bisogna riportarli un po' a vedere le cose, la stessa cosa, da un punto di vista completamente diverso. E devo dire che alcuni di loro a un certo punto sono arrivati a chiedere: ma secondo voi noi interpretiamo, non so, l'immagine di un gladiatore con la gonnellina tipo Marilyn Monroe sulla grata della metropolitana di New York, che si alza la gonnellina, voi che effetto fa questo? Allora loro lo trovavano goliardico, simpatico, ironico. Io ho detto: guarda, assolutamente no, cioè una cosa del genere per me come lesbica e come donna è assolutamente inconcepibile. E loro ti guardano e ti dicono: ma davvero, cioè questa cosa è offensiva per voi? Ma non lo fanno con cattiveria, perché l'ho riscontrato parecchie volte. E dice: sì, ma gli spieghi il perché. E allora ti guardo e dico: beh, sì, forse hai ragione, però noi non intendevamo essere offensivi o in qualche modo denigratori della figura femminile, anzi volevamo valorizzarla. E allora entriamo in un dibattito a cercare di capirci su cosa si intende sulla figura femminile, su il rispetto, diciamo, di determinate esigenze richieste da parte delle donne, che loro stentano a capire, però insomma basta spiegarsi. Bene, io allora grazie Tiziana, perché questa tua risposta è molto interessante, cioè potrebbe aprire un bel dibattito anche tra Posso di noi. Posso dire una cosa politicamente scorretta? Spero che i compagni non si arrabbino troppo. Io penso che è vera la cosa che tu dici, perché uomini e donne sono profondamente diversi, sono talmente diversi che vivono in maniera diversa e addirittura scelgono di morire in maniera diversa. Quando si suicidano in modi diversi. Le metodologie sono completamente diverse. Esatto. Allora, sull'onda di questa riflessione profondissima, manderemo un altro pezzo musicale e poi Cecilia scalda i muscoli. Certo, va bene, tra poco. A tra poco. Adesso ho preparato un pezzo di John Almatreding, nostra cara Woman in Love. Ah, questa è facile da dire, sei riuscita bene. Shifting sands in a desert storm, like a raging fire. Heat of the big sky, babe. Your love is growing strong. Change your heart, I surrender. Here's where I belong. And if I get emotional and I'm to my senses in a heartbeat, darling. Hold me tender in the night. Tell me what miracles are made of. Bright, sweet, soft morning dew. How can I ever show you? Allora, eccoci nuovamente qui. Cecilia, hai scaldato le corde vocali? Ho fatto i gorgheggi. Ok, hai gorgheggiato, benissimo. Allora, attraverso la nostra pagina Facebook, Cecilia, noi siamo a conoscenza di tutte le iniziative che proponete come Rete Rainbow. E la domanda che abbiamo voglia di fare a te è: quanto di questa esperienza, e se poi vuoi ridire qualcosa delle ultime cose che state proponendo, riconduci oggi all'interno dell'evento Pride? Certo, allora, come Rete Genitori Rainbow noi, lo sai, ci rivolgiamo essenzialmente a mamme lesbiche e papà gay con figli da precedenti relazioni eterosessuali, quindi come per esempio nel mio caso io sono separata, ho due figli grandicelli, però ricordo bene tutto quello che ho passato quando ho preso consapevolezza di essere lesbica, e quindi questo è il focus principale dell'associazione Rete Genitori Rainbow. Però abbiamo anche altre vocazioni, quindi una sicuramente culturale, e a proposito delle ultime cose che abbiamo fatto, che stiamo facendo, per esempio c'è stato recentemente all'inizio di maggio un convegno addirittura a Palazzo Vecchio, quindi in una sede istituzionale, ospiti del Comune di Firenze, sulla genitorialità omosessuale e transessuale con figli da relazioni etero. Ma oltre alla parte fondamentale che è il sostegno alla persona, alla mamma, al papà e a tutte le figure affettive attorno, oltre alla parte culturale di cui ti dicevo, c'è il versante politico, per cui per noi di Rete Genitori Rainbow è importantissima la partecipazione ai Pride, ma anche la collaborazione alla stesura del documento politico, in cui per esempio quest'anno abbiamo chiesto in particolare interventi di formazione, perché tanti genitori, dove? Nell'ambito delle scuole, Cecilia? Allora guarda, sicuramente nell'ambito delle scuole, ma ci sono anche due ambiti che non sono tanto considerati: i tribunali. Quindi presente che è stato stimato che l'11% delle separazioni giudiziali sono a causa omosessuale, quindi le persone, cioè, si rivolgono il genitore ai... Scusami Cecilia, per capire, prego. Il genitore eterosessuale, mettiamo così, chiede la cosa significa sono a causa omosessuale? Scusa, non ho capito. Ti spiego, quando facciamo il mio caso, io mi sono separata con una più o meno consensuale, ma se il mio ex marito avesse chiesto per esempio l'affidamento dei figli, perché io sono lesbica, saremmo andati davanti a un giudice. Certo. Quindi a litigare. Quindi di queste separazioni dove i due coniugi litigano, quindi non vanno ad amore d'accordo a presentare una separazione consensuale, ma sono in disaccordo, ben l'11% c'è uno dei due che è omosessuale. Quindi è moltissimo. C'è tutto... Prego? È moltissimo, è l'11%, no? Sì, l'11% è tanto, e questa è una stima del tutto indipendente. L'associazione Avvocati Matrimonialisti nel 2010 ha fatto questa stima. Quindi ci sono tutte persone, assistenti sociali, mediatori familiari, quindi la nostra richiesta è di formazione, e l'abbiamo inserita nel documento politico del Pride di quest'anno, per le persone che lavorano nell'assistenza sociale e nei tribunali, quindi non solamente la scuola, che ovviamente è un fronte importantissimo. E questo è un po' l'apporto che abbiamo dato. E a proposito, parlavamo prima degli eventi per le donne. Sì. Adesso voglio proporre all'interno della mia associazione, e spero proprio di riuscire, di fare un evento laboratorio indirizzato non sempre alle solite mamme lesbiche, ma a un collettivo ben più ampio, a tutte le donne che hanno avuto una compagna con dei figli. Quindi se già sono tante le lesbiche con dei figli da precedenti relazioni, ancora di più sono le donne che sono, tra virgolette, incappate in una di queste mamme lesbiche. E secondo me può venire una cosa interessante. Direi che è interessante, e che è una bella fetta, insomma. Oltretutto parliamo di qualcosa che è esistente, no? La differenza ne abbiamo già parlato, però mi piace poterlo cioè, poterlo ridire insomma insieme a te, la differenza tra la rete Arcobaleno e voi è proprio che voi i figli esistono, ci sono, sono già un fatto insomma, e con tutto quello che appunto, come hai detto, hai spiegato benissimo, ne consegue. Ma se... sì, ci sono punti, punti in comune, come quella del bullismo nelle scuole, ci sono molti punti di differenza, come per esempio il fatto che non necessariamente noi vogliamo, desideriamo di costruire una famiglia, non è scritto che noi vogliamo una famiglia nuovamente, certo, per esempio, per cui questo accento, questa sottolineatura del termine famiglia per noi non è così cogente. Certo, certo. Senti, a proposito del documento, non so se possiamo entrare un pochino più in argomento, no? Perché tu hai parlato di un aspetto legato anche a richiesta di diritti all'interno del documento, quindi a una parte diciamo più rivendicativa, ma anche una parte più politica, no? Che a noi per esempio è piaciuta tantissimo, ed è per esempio proprio l'incipit, no? del documento che ci è sembrato veramente interessante, e cioè il fatto di ridire che siamo, cioè che il documento dice siamo contro il razzismo, quindi antirazzisti, antisessisti, per una società inclusiva dove la differenza è comunque un valore, insomma ci sono degli elementi, ecco, per esempio antifascismo, antisessismo, antirazzismo, per una piena cittadinanza e una parità. Allora, questi sono elementi sicuramente condivisibili, e su questa scorta noi come Coordinamento Lesbiche Romane abbiamo aderito al Roma Pride di quest'anno, insomma, perché il documento ci soddisfaceva alcuni aspetti che per noi sono irrinunciabili ormai, data la situazione generale. Quello che volevamo chiedervi, a te, a tutte e due, nel documento politico si parla anche del valore dell'uguaglianza e del valore delle differenze. Non è di facile comprensione immediata, no? Perché sono due, è come se fossero dicotomici questi due elementi, no? Come pensate che si accordino questi due diversi concetti? Ma sicuramente c'è una larga parte del movimento che chiede diritti, quindi diritti uguali, il sì, famoso matrimonio egualitario, quindi che certamente ci porrebbe tutte le persone omosessuali sul piano, percepite con gli stessi diritti delle persone eterosessuali, quindi sarebbe sicuramente un calcio all'omofobia. D'altro canto però c'è la necessità di mantenere i distinguo, non per fare tante piccole parrocchie, ma per salvaguardare la specificità di ciascun gruppo, di ciascuna componente del movimento. In questo sì, senso non sono antitetici, io trovo. Sì, sì. Comunque, forse il concetto diventa un po' più chiaro se si parla di uguaglianza di opportunità e di riconoscimento delle differenze contemporaneamente, cioè partire, garantire a tutti una base di partenza uguale, parità di opportunità, ma all'interno di questo riconoscere anche l'individualità delle persone, che mi sembra fondamentale. Su questo punto diciamo c'è stato un ampio dibattito nel momento della discussione in Assemblea Generale, e le posizioni erano molto diverse, perché venisse diciamo proprio chiarito molto bene che uguaglianza non significa appiattimento, ma significa appunto un equo riconoscimento a tutti nell'ambito di una differenza di come utilizzare questa uguaglianza. Sì, sì, ma formare una coppia, formare un poliamorismo, vivere da single, tante sfaccettature della realtà che poi esistono. Certo, no, ma questo è chiaro, secondo me. Ci piaceva che voi lo lo chiariste ulteriormente, capito? Lo chiariste ulteriormente perché ci sembrava veramente interessante. Se avete ancora un attimo di pazienza, noi manderemo un altro pezzo musicale. La forte Nancy deve lavorare, quindi deve mettere i pezzi, se no che è venuta a fare qua. E, guarda, e poi però ti chiedo una cosa, ci sì. stanno chiudendo dentro, perché in questo momento abbiamo finito la riunione al Mieli e ci stanno chiudendo dentro, per cui forse se possiamo rimandare il pezzo e dire le ultime cose, perché se no stiamo tenendo lì fermi i compagni del Mieli, possiamo? Sì. Facciamo questa domanda proprio, guarda, visto che abbiamo parlato di poliamorfismo, di poliamorismo, scusa, amori polimorfi, ci volete spiegare, nel documento ne parlate, anche come dire, come una sorta di prefigurazione di modi diversi di amare, e quindi un nuovo sì. modo anche di intendere relazioni affettive. Ci volete raccontare qualcosa? Guarda, faccio un passo indietro, questo era uno dei punti forti del documento politico già dell'anno scorso e noi siamo voluti partire, tutte le associazioni sono volute ripartire da quel documento che per noi era stato molto molto importante, e anche lì si faceva riferimento alle forme di amore che ciascuna e ciascuno sceglie per sé, quindi senza ingabbiarci in questa sorta di obbligatorietà della coppia. E questa cosa è stata, l'anno scorso lo slogan era vogliamo tutto, quest'anno lo anticipo, lo slogan sarà Roma città aperta, e questo senso dell'apertura e del non ingabbiarci in queste obbligatorietà continua a essere molto molto importante. Sì, infatti è stato il frutto di una condivisione, di uno scambio di idee piuttosto ampio e importante su questo punto, diciamo, dei diritti di cittadinanza come singolo e nelle varie formazioni, insomma, chiamiamole, nelle formazioni sociali che possono essere la coppia, i rapporti associativi, il poliamore. Diciamo che è un punto molto sentito e che forse, come pochi altri punti del documento politico, ha riscontrato un riconoscimento immediato da parte di tutti, senza alcuna discussione, senza alcun ma, se, però, forse, cioè si è proprio ampliato, man mano uscivano le idee, sì, bisogna riconoscere anche questo, cioè una bella inclusività. Senti, però permetteteci un'altra domandina rapida, perché invece su questo noi abbiamo apprezzato molto il documento proprio su questo aspetto, e cioè ci sembra che nel documento politico vengano menzionati i diritti delle singole e dei singoli, e a me sembra che questo invece sia un concetto piuttosto inedito rispetto ai documenti precedenti, restituendo quindi il diritto di cittadinanza, al diritto di cittadinanza il senso della vera democrazia e alla società l'elemento dell'inclusività, perché altrimenti quando andiamo su piattaforme che rivendicano i diritti di parità, cioè io voglio essere pari agli altri, quindi il matrimonio eccetera eccetera, si va a perdere quest'altro elemento che è quello del se non sono in coppia chi sono, per cui o se sono in coppia e allora esisto, o se non sono in coppia non esisto, non sono. E a questo proposito invece com'è stato il dibattito, e se ci potete dire due parole? Guarda, il dibattito su questo è stato abbastanza chiaro e ampio, nel senso che, come dici te, è importante la coppia, sono importanti i diritti, il riconoscimento dei diritti, eccetera, ma se uno fa un passo indietro e guarda la cosa, diciamo, mettendoci un po' più di distanza, la coppia è formata da due individui, o nel caso del poliamore, diciamo, da più individui, ma si parte dal singolo soggetto, quindi è il singolo soggetto il luogo di riconoscimento dei diritti in primis, poi c'è la coppia, poi ci sono gli altri diritti, però è stato un punto abbastanza importante questo che è stato riconosciuto durante le assemblee, ma non soltanto in quella di quest'anno, come diceva Cecilia, è un punto che è stato discusso molto l'anno scorso e che noi abbiamo ripreso in toto perché è piaciuto e è stato condiviso veramente da tutte le sigle, anche quelle che magari non hanno partecipato a tutte le riunioni hanno letto il documento e lo hanno sottoscritto in pieno, quindi un buon punto di partenza, direi. Bene. E allora non so se avete altre cose che ci volete raccontare, oppure che cosa dirvi? Sono due cose velocissime, due informazioni in chiusura. Allora, il sito del Roma Pride è www.romapride.it. L'altra cosa è che molto probabilmente, anche se non c'è la certezza matematica, ci saranno degli eventi diffusi. Probabilmente la conferenza stampa per annunciare il Pride sarà mercoledì 5 giugno e in qualche modo sarà congiunta con il Pride cosiddetto nazionale, che quest'anno si svolge a Palermo il 22 giugno. Quindi si terrà a Roma la conferenza stampa. Dopodiché, dopo il 5, ci saranno degli eventi diffusi, tra cui stiamo così pensando anche a questo dibattito laboratorio di cui ti dicevo, sulle compagne delle mamme lesbiche. E altra cosa che non si è fatto mai negli anni precedenti, probabilmente ci saranno, visto che non c'è un park pride vero e proprio, ci saranno dei gazebo in punti della città, o forse si stava pensando addirittura della provincia, per parlare del pride, per dare un punto alle associazioni, per parlare dell'associazione, ai gruppi, a tutti i promotori e promotrici del Pride, per parlare delle proprie realtà. Poi vi daremo notizia di dove saranno questi gazebo e in quali giorni. Bene, queste cose verranno sicuramente trovate sul sito, da quello che stai dicendo, no? Certo. Sì, certo, www.romapride.it. Bene, allora vi salutiamo e ringraziamo per essere vi ringraziamo per essere state con noi e ringraziamo anche grazie a voi. i compagni del Mario Mieli che vi hanno tenute segregate. Sì, adesso glielo diciamo. Benissimo. Allora, grazie e buon proseguimento di serata. Arrivederci, grazie, ragazzi, bravo, a presto al Pride. Grazie. Ciao. Ok, adesso in onore di, scusate, tolgo il microfono, ok? Allora, in onore di tutte le lesbiche sovrappeso, in questa sala ve ne sono due, cioè la me medesima e Rosina Amore. Io ho scelto, sono diversamente magra, la famosissima canzone di Bad Ditto che tutte conosciamo. Però anche Lucilla, la dedichiamo anche a te. Io ultimamente sono ingrassata, appunto, 10 kg, lo sapete. Non lo so. Poi chi vorrà sapere mi può telefonare il perché. Sì. Ecco a voi Bad Ditto. E allora rieccoci nuovamente qui mentre Lucilla prova il ballo egizio sfiancandomi, perché purtroppo io la devo sopportare 7 giorni su 7 e voi soltanto una volta ogni 15 giorni. Vi ricordiamo, mentre Lucilla continua, vi ricordiamo che appunto siete all'ascolto di È una calamità, di cui ci rendiamo e anche voi vi rendete perfettamente conto, è appunto una trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane, e andiamo in onda i martedì ogni 15 giorni nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito. Se volete ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, potete farlo cliccando su www.ondarossa.info, oppure potete farlo tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi dovete cliccare sulla icona in diretta e sarete subito con noi. E vi ricordiamo che se volete mandarci una mail potete contattarci a contatti@clrbp.it e visitare appunto il nostro sito www.clrbp.it. A questo punto siamo quasi in chiusura, ma Lucilla ci dirà un'ultima. Abbiamo anche la pagina Facebook dove potete dire mi piace. Mi piace. Stasera il trash che ha abbonda proprio. A questo punto Lucilla, in chiusura di trasmissione, ci dirà quali sono i gruppi che hanno promosso il Roma Pride 2013 e poi ci saluteremo. Allora, i gruppi e le gruppe promotori e promotrici del Roma Pride, no, perché io sono stufa che sempre il maschile si usa, quindi le associazioni e i gruppi sono diversi, e ci abbiamo Agedo Roma, Associazione Radicale Certi Diritti, Associazione Trans Libellula, Buzz Intercultura, Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli, Condividi Love, Contro Violenza Donne, Famiglie Arcobaleno, GayX, GayNet Roma, Letter Club Roma, sempre Lista Lesbica Italiana, la Luis Arcobaleno, la Queer Lab, la Rete Genitori Rainbow, la Roma Rainbow il coro, insomma, il Teatro Valle Occupato e l'OUAR di Roma. E per aderire, per chi volesse, gruppi, associazioni, singoli che volessero aderire, possono inviare una mail a adesioni@romapride.it oppure compilando il form che trovate naturalmente sul sito. Ecco, vi abbiamo detto più o meno tutto, gli appuntamenti, adesso ci siamo. Non so se Nenzina vuole mandare una canzone o la sigla finale, che facciamo? Dimmi tu, io ho tutto pronto, quello che vuoi. E c'è una canzoncina bella? Non so, c'è il duetto di Melissa and Rage con Kiddy Lang, se vuoi, dimmi tu. Mandalo, vai, e poi sigla finale. E per voi tutte, l'appuntamento è con noi del CLR il 4 di giugno, e dove andremo anche a fare un'altra volta un'intervista radio con Rosaria Iodice, che avremo ospite invece alla Casa Internazionale il 7 di giugno per la presentazione del suo libro La Donna Lumaca. E adesso vai, Nancy. Come on, baby, let's get out of this town. Got a full tank of gas with the top rolled down. There's a chill in my bones. I don't wanna be left alone. So baby, you can sleep while I drive. I pack my bag. Volta ci siamo fatte beccare in castagna. Viva la radio, viva la diretta, viva la direttissima, viva il Beach Connect. In ogni modo, su questo il coordinamento lesbico romano vi saluta e è stato per voi. Buone tutte, perché come al solito c'è qualcosa sempre che manca, è il friccicore finale, voi siete contente, vero?